We're now back in Florence and Lorenzo and Sarah are in front of Sarah's hotel. Sono di fronte all'albergo di Sara. Lorenzo would like the evening to continue, but... Ma prima le parole nuove. Ascolti e ripeta. Cenare. To have dinner. Cenare. Domenica. Sunday. Domenica. Un aperitivo. An aperitif. Un aperitivo. Ci incontriamo. We meet. Let's meet. Ci incontriamo. L'obelisco. The obelisk. L'obelisco. A domani. See you tomorrow. A domani. And just before we hear the dialogue, here's the verb. Vedere. To see. Vedo. I see. Vedi. You see. Vede. He sees. Vede. She sees. You see formal. Vediamo. We see. Vedete. You see. Plural. Vedono. They see.